Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Se c'è un allenatore che esce rilanciato da questo finale di stagione, questo è certamente Franco Colomba. È arrivato a Parma lo scorso 4 aprile con la squadra malmessa in classifica, ma soprattutto spenta e attesa oltretutto da un calendario terribile che prevedeva Inter, Udinese, Palermo, Juventus. Invece ha messo insieme una salvezza anticipata giocando del bel calcio e addirittura facendo la bellezza di 13 punti in 6 partite, ma in queste 6 partite. Buongiorno Colomba. Buongiorno, salve a tutti. Dunque sei arrivato con la bacchetta magica, te la sei portata nelle ultime salvezze, Bologna e Ascoli, no? Le ultime. Ma sì, sono arrivato con un bagaglio di esperienze simili e poi soprattutto insomma in una piazza con buoni giocatori e quindi che necessitavano forse di quello che sono riuscito a portare, un po' di serenità, un po' di qualche modifica, qualche situazione un po' particolare, però in linea di massima negli ultimi 2 anni più o meno era stato così ugualmente. Sì, perché sto guardando il tuo score. Ad Ascoli era entrato in dicembre al posto di Chiarenza e hai salvato la squadra all'ultima giornata, a Bologna al posto di Papadopoulo lo scorso anno e 7 punti di vantaggio sulla terz'ultima, quindi con una grande rimonta, stavolta con assoluta tranquillità, ma levandoti degli sfizi, perché poi rivedendo i risultati delle ultime giornate, se ce n'è uno che fa impressione è Udinese Parma 0-2. Devo dire, allora, la squadra, confesso, si è messa a disposizione totalmente, questa è la cosa importante, e poi l'allenatore, nella fattispecie il sottoscritto, cerca di riuscire a capire tutto subito. Ci sono delle volte in cui questo accade e riesce, ci sono altre volte in cui ci si mette un po' di più, quindi siccome il tempo non c'era abbiamo cercato di accelerarlo, appunto, e quindi è andata bene, nel senso che pur affrontando avversari importanti non ci siamo spaventati di questa era la cosa determinante. Ecco, dato che mi piacerebbe capire e far capire che ci ascolta il metodo con cui uno interviene in situazioni di questo genere, allora mi piacerebbe, così senza violare nessuna privacy per l'amor di Dio, ma soltanto capire: si parte dalla testa, si parte da scelte tecniche, si parte dalle gambe, da dove si parte quando in realtà Secondo me è proprio la testa la cosa importante. La testa è capire se una squadra che tutto sommato l'anno scorso ha fatto bene quest'anno si trova in difficoltà perché si trova in una posizione di classifica inconsueta oppure almeno non era preventivata. Poi si può anche avere in mente di cambiare qualcosa sotto l'aspetto così tattico, prettamente sotto l'aspetto anche come posso dire di lavoro settimanale. Sì. È ovvio che non è una cosa sola. Io sono rimasto piacevolmente colpito dalla voglia che avevano di uscire questi ragazzi dal problema. La squadra a livello fisico era allenata bene, per cui non era quello il problema. Il problema era proprio di un discorso magari di un pochino di intensità che a loro poteva mancare, perché si era sviluppato un lavoro magari diverso, però pur sempre valido, quindi non sto qui a sindacare quello che era stato fatto prima. Sì. Di sicuro in breve tempo devi lavorare su più fronti, non è che ce n'è uno solo, no? Quindi è difficile, però ho un po' di esperienza in questo senso, me la sono fatta, quindi è andata bene. Senti, l'ultima volta che a Parma era successo di salvarsi nel finale e di salvarsi bene, proprio cambiando faccia alla squadra, era stato pochi anni fa con Claudio Ranieri. Ranieri, grazie a quell'esploit parmigiano, trovò la Juventus l'anno successivo. Colomba per me non è così. No, per me non è così, anche perché sono così, al momento in cui sono venuto qui a Parma siamo accordati anche per l'anno prossimo, ma però devo dire che sono contento di questa scelta, anche perché ho voglia di partire subito dall'inizio con una squadra, anche perché l'ho già fatto in passato con buoni risultati, quindi adesso magari si sta creando il personaggio del pronto soccorso, ma non è solo questo, credo che a Reggio Calabria e in altri posti, a Salerno ha fatto bene anche partendo dall'inizio, quindi non è questo, non mi sono specializzato solo in questo, certo, quindi ho voglia di cimentarmi con una buona piazza, un buon gruppo, poi magari chi lo sa in futuro, magari delle volte quello che è accaduto a Ranieri dopo 6 mesi a me accade dopo 1 anno e mezzo, che ne sai? Certo, chi può dirlo e chi può negarlo? No, anche perché è vero che questa nomea poi di quello che funziona benissimo con l'ambulanza, insomma, proviamo, no? Proviamo ad attaccare la sirena e proviamo a partire dall'inizio, che era quello che, insomma, tutti pensavamo accadesse lo scorso anno a Bologna. Lì subentrato Papadopoulos, hai salvato Bologna con 7 punti di vantaggio sull'Atalanta terz'ultima, quest'anno straconfermato, mancano poche giornate al campionato e Colomba viene esonerato, per la gioia poi del Parma, avremo scoperto ad alcuni mesi di distanza, a parte che Bologna si è a sua volta salvato, chi dice di no? Rivisto dopo e per quel che si può raccontare, ma che cosa accade in quella situazione? Ma guarda, è un film imprevisto, anche se fra virgolette anche un po' preventivato, il cambio di società, idee così frammentarie come poi si è potuto vedere dopo, bugie una dietro l'altra sulle mie caratteristiche come allenatore per il progetto di nuovo virgolette Bologna, e quindi non ci siamo trovati e basta, tutto qua, hanno preso un'altra strada, hanno fatto il loro cammino, hanno rischiato di saltare per aria, era un progetto buttato al fallimento, questa è la verità, e quindi si sono salvati perché è giusto così, hanno fatto un buon lavoro almeno sotto il profilo tecnico e il gruppo dei giocatori e l'allenatore, perché per il resto onestamente lo si vedrà anche in futuro, le grandi cose non sono state fatte, no, quindi, certo. Quindi a questo punto sono contento di quello che sto facendo adesso, anzi a questo punto li ringrazio di avermi dato una possibilità così importante. Sì, beh, è giusto, questa è una, a parte che è molto elegante, beh, una giusta rivincita postuma, fermo restando che mi sembra che i problemi societari non siano affatto risolti. No, assolutamente, si sono acuiti perché è così, quando non si gettano basi solide mai, ma solamente tutto campato in aria, questo è il finale. Se non siete già lì per iniziare l'allenamento, io proverei a chiedere ancora 3 o 4 minuti di pazienza, solo con... possibile? No, va bene. Grazie, con un intervallo di 1 minuto per sentire come va sulle strade. Beh, ce ne ha già raccontate di cose Franco Colomba, ci ha detto che resterà a Parma anche per la prossima stagione in maniera ufficiale, ci ha raccontato come è successo questo, non miracolo, ma insomma questa impresa, perché comunque tale rimane, ci ha detto che a giochi fatti ringrazia il Bologna per quel simpatico trattamento di inizio stagione, risalendo la via Emilia, no, mi pare, perché nella tua carriera anche di calciatore c'è stato innanzitutto Bologna, poi c'è stata a parte Verona, a parte Avellino, una parentesi splendida sia da giocatore che da allenatore, ma insomma Bologna, poi Modena, adesso Parma, stai risalendo la via Emilia. È un film già visto, nel senso le città dell'Emilia si assomigliano molto tutte. Sono città che offrono grande vivibilità, città godibili per tutti, per gli atleti, per le famiglie, sono città che non danno grande stimolo sotto il profilo delle pressioni da parte dell'ambiente, per cui è importante le pressioni, gli stimoli cercarseli al nostro interno, perché sono quelli che danno la molla per poter raggiungere dei risultati. Dal di fuori c'è solo grande rispetto, grande sostegno, però non c'è mai una pressione, diciamo, fisica, ecco, se vogliamo, e che senti in maniera pressante, per cui per certi versi è più difficile. Al sud sei sorretto e sospinto a volte anche da motivazioni esterne, qui motivazioni esterne sono di grande rispetto, grande sostegno, però non sotto forma di pressione ma di affetto, ecco, che è diverso. Dopo aver preso nota da un'agenzia di stamattina che Parma ti ha già assegnato il Petit Tot d'oro, no? Che per loro è un premio che molto, conta, molto, che pesa. Sono molto contento, veramente nel giro di un mese e mezzo cambia la vita, no? È come la telefonata famosa. Sì, perché il petitò vuol dire Maria Luigia, vuol dire le grandi tradizioni parmigiane. Quindi... Vuol dire grande rispetto, grande stima, e quindi me la sono guadagnata in un mese e mezzo, ora come no? dovrò continuare a guadagnarmela, meritarmela ancora di più. Certo, è una specie di adozione il petitò. Esatto. Volevo chiudere con una notazione tecnica, secondo me. Mi ha stupito molto poco il fatto che arrivando in panchina uno che, adesso lasciando stare il predecessore, non era un confronto antipatico, ma è un dato di fatto, e cioè arriva uno che a calcio ha giocato e che era dotato una signora tecnica come Franco Colomba, e combinazione Giovinco ridiventa più protagonista di prima. No, insomma Giovinco è già protagonista di suo, però devo dire l'ho visto determinato, voglioso, quindi cerco di sfruttarlo il più possibile per quelle che sono le sue caratteristiche. Lui ha doti importanti che deve migliorare dandogli continuità, e mi sembra che la volontà ci sia. Chiudo esagerando con una Marcord del Bologna anni 80, parliamo di 30 anni fa, ma insomma tu non puoi averlo dimenticato perché ne eri il protagonista. Io esagero e ricordo in quel magnifico Bologna di Radice, ricordo che certi movimenti di Dossena in mezzo e di te alla sua sinistra, io vedo qua, adesso in piccolo non esageriamo, ma Xavi e Iniesta però, come modo... Come... Insomma, adesso è inutile magari ricalcare proprio moduli precisi o cose, però io credo che in una squadra ci debba essere tutto, e quindi se c'è quello che sa giocare un po' più indietro, quello un po' più avanti, sull'esterno, quello che sa fare l'esterno, perché delle volte a voler inventare le cose è sbagliato. Provare a mettere i giocatori giusti al posto giusto è la cosa migliore che si possa fare. Congratulazioni a Franco Colomba, grazie. Okay, grazie a te, arrivederci, saluto, ciao. Buon pomeriggio. Chiudiamo questo collegamento con Parma, stavo chiudendomi anche l'audio perché ero un po' turbato da una serie di messaggi che arrivano, ne leggo uno soltanto. Raffaele da Como scrive: ma lei che cifra ha riconosciuto a Matteo Caccia per l'introduzione che ha fatto ieri nel suo programma? Beh, guardi, io le garantisco che ho cercato anche di dissuadere Matteo Caccia ieri da questo elogio incredibile che mi ha fatto nel suo programma, di cui dopo averlo diffidato anche per iscritto via mail, non mi è rimasto altro che ringraziarlo. Non posso farci nulla se lui ha questa stima smisurata per me, che poi con molta ironia, autoironia, lui poi ha ovviamente un po' caricato. Lui vorrebbe essere me, io gli ho fatto presente che avendo lui 36 anni e io la stessa età ma con i numeri sfalsati, se vuole fare sto cambio lui non ha che da dirlo, però lo facciamo fino in fondo, già che ci siamo. Prima dei vostri interventi in diretta al consueto numero verde, sentirei qualche voce interessante, perché per esempio parlavo prima di Ranieri come autore dell'ultima prodezza parmigiana, di una salvezza difficile nel finale di stagione che poi gli valse il rilancio sulla panchina della Juventus. Ranieri, dopo un lungo silenzio, è tornato a parlare del futuro della Roma e della Juventus. Il campionato esprime sempre la verità, ha vinto il Milan, la squadra più continua, complimenti a loro. So che è cambiata proprietà e da tifoso romanista appunto mi auguro che si faccia bene. Arriva una realtà nuova, sembra che è la prima in Italia, no? Una proprietà straniera non c'era mai stata, per cui do doppiamente il benvenuto e da tifoso e da italiano a questa nuova realtà straniera, americana. Innanzitutto mi dispiace per Del Neri, perché insomma alla fine siamo sempre noi allenatori che paghiamo. Ma va bene, perché in pratica siamo pagati anche per questo, no? Per cui bisogna dare il benvenuto a Conte, uno juventino doc, un ragazzo che ha fatto bene dove è stato, vogliono immettere nel motore quella determinazione, quella grinta, quell'essere juventino, per cui chi più di Conte può fare queste cose. A proposito di Nuova Roma, Thomas Di Benedetto ha annunciato nella notte che Walter Sabatini è il nuovo direttore sportivo della società. Riccardo, proprio da Roma, ha chiamato, buongiorno. Buongiorno, dottor Garantini, io sono sempre molto volentieri. Senta, questa bella chiacchierata con Colomba mi ha fatto venire in mente una cosa che avrei voluto dirle già da tempo, ma poi non ho avuto modo. Cioè, in Colomba si risente anche l'umiltà del mestiere, che un po' l'Italia sta perdendo un po' a tutti i livelli, l'umiltà di saper fare bene il proprio mestiere, che ricorda un po' Nereo Rocco, di cui lei poi ha scritto in maniera così commovente. E questo mi faceva pensare che poi dietro, ecco, è una cosa che non voglio dire da milanista, un uomo come Leonardo, per carità, il comportamento di De Gattuso è inqualificabile, ma ha lasciato in ombra un'altra cosa, secondo me. Cioè, non trovo così positivo che 15 giorni prima si dica di un uomo presidente del comitato organizzatore dei mondiali in Brasile, quindi bilanci, contratti, organizzazione. Poi un uomo che fa un salto che in Spagna equivarrebbe a fare un salto dal Real Madrid al Barcellona o viceversa. Cioè, questa tuttologia, secondo me, dà un peso specifico che questo personaggio non merita, cioè un po' più piccino di quanto lo si voglia far ritenere, al di là delle rivalità sportive che contano poco. Ma io non so, sì, ho capito Riccardo, io non so se piccino o se troppo disponibile, forse con la stampa, troppo estroverso. Cioè, ci sono dei momenti in cui, dei momenti della vita professionale, sto parlando, in cui si è davanti a scelte serie, a scelte difficili, a scelte di quelle che ti impegnano tutto, e in quei momenti ci vorrebbe un po' più di cautela pubblica. Ora, è chiaro che non succede a noi persone normali, perché nessuno ci viene a chiedere che intenzioni abbiamo per il futuro, eccetera, o al massimo sono quei pochissimi che ti circondano, che sono al corrente di una più o meno modesta trattativa. Questi invece hanno i microfoni sotto il naso dalla mattina alla sera, e quindi se uno è, per l'appunto, una persona gentile, disponibile, estroversa come Leonardo, rischia di scappargli la frizione. A lui scappò la frizione, non c'è nessun dubbio, perché disse una serie di cose, disse che solo il Brasile, che dopo il Milan poteva esserci solo il Brasile, che che questo no, che quell'altro no, che certamente sarebbe stato fermo. Sono cose che si dicono, insomma, e in cui tanti cascano, no? Ci cascò Capello. Quante volte Capello disse mai alla Juventus, dopo la Roma mai alla Juventus, e cominciò e avanti con le invettive, dai gesuiti non tornerò mai, dai gesuiti eccetera. Il giorno dopo era lì con i gesuiti ed è diventato pappe ciccia con i gesuiti al di fuori dei risultati del campo. Quindi vede che forse bisognerebbe in quei momenti davvero imporsi lì, sì, il silenzio stampa. Alessandro, provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno. Dica. Per quanto riguarda Colombo, che ho ascoltato come entri poco fa, ecco, volevo dire, forse farà poca strada nel calcio, perché è una persona educata, competente, misurata, e quindi può darsi che nel pallone non abbia un grandissimo futuro, anche se ha avuto un ottimo passato. Per quanto riguarda Gattuso, se posso dire un po' fuori tema, cioè un po' passato del tempo, però io ho avuto modo qualche mese fa, insieme a mio figlio di 5 anni, quasi 6 aveva in quel momento, di passare vicino a uno stadio, allo stadio del mio paese, nel momento in cui c'era una partita, si parla di eccellenza, quindi una categoria piccola. Io sono stato calciatore e poi spettatore in quello stadio. Ecco, io non le saprei dire in 5 minuti tutte le male parole, le offese, le bestemmie, tutte gli auguri di morte prematura, all'altro, eccetera. E quindi la faccenda di Gattuso non è colpa sua, ci mancherebbe, ma si inserisce in tutta una storia che viene da lontano e che rende gli stadi oramai invivibili. Certo, Alessandro, a maggior ragione un giocatore che è capitano in quel momento, o comunque giocatore simbolo di una squadra della visibilità del Milan, e che è stato un protagonista di una vittoria di campionato del mondo, a maggior ragione non può aggiungersi, non può dare un esempio così diseducativo in pubblico, molto semplicemente. Poi il resto mancia, ma questo credo che sia imprescindibile come punto di partenza per una riflessione su quell'argomento, peraltro ormai discretamente ritrito. Infatti, parmigiani scatenati per Franco Colomba. Leggo un messaggio, uno solo a caso, Davide Sani da Parma: dica Colomba che prenda a casa a Parma e che resti da noi a vita, è l'uomo ideale per la nostra piazza. Davide, mi pare che Colomba abbia per l'appunto questa intenzione, poi ne riparliamo magari quando gli capiterà di perdere 3 partite, perché capiterà anche a lui, non c'è dubbio, ma insomma, e invece mi scrive Gicerutti, il nome non è per esteso, le piace sempre esagerare quando sei ospite al telefono, da Colomba a Iniesta c'è un po' di differenza. Beh, insomma, avevo avuto la presunzione evidentemente sbagliata di che si capisse che c'era un po' di ironia in questo, ma un po' di ironia, io non parlavo di valori assoluti, parlavo di metodo, di schemi, però bisognerebbe aver visto giocare quel Bologna dell'80-81, così come il Torino del 75-76, che ebbero tutte e due il marchio di un grande allenatore come Gigi Radice. Allora si vide per la prima volta in Italia il concetto di riconquista del pallone andando a riprenderlo attaccandoli alti, come dicono oggi, in tutte e due quelle squadre, e poiché il pressing lo comandava D'Ossena in quel Bologna in mezzo al campo, e D'Ossena non i piedi ma un piede, il destro era buono, quello di Colomba sinistro era ottimo, a differenza di Iniesta che invece è principalmente destro, insomma c'erano dei movimenti, dei meccanismi che rivisti a distanza di tantissimi anni potrebbero avere questa suggestione, dopodiché finisce evidentemente lì, ci mancherebbe altro. Invece c'era eccolo qua, un messaggio meraviglioso che è un assist. Garanzini, quando parli di Mourinho sei troppo fazioso e inascoltabile, ma del resto neanche il più bel libro è appassionante dalla prima all'ultima pagina. Saluti Aldo da Milano. Ma insomma, intanto questo è un complimento di cui ringrazio. Quando parlo di Mourinho sono fazioso e inascoltabile, e allora tra poco, adesso prima sentiamo due ascoltatori in linea, un paio di voci, e poi vi leggo non cosa penso io di Mourinho, anzi vi leggo che cosa penso io di Mourinho, ma scritto da Xavier Marías, che è il più grande scrittore spagnolo contemporaneo, accademico di Spagna, che ha firmato stamane sul settimanale del Paese, sul magazine del Paese, cioè del principale quotidiano spagnolo, ha firmato una intemerata contro Mourinho che insomma, sinceramente era difficile da immaginare, non per me, ripeto. Leonardo Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, sono uno juventino frustrato e le chiedo un avallo al mio sfogo. Le chiedo un parere su quello che come ha operato la dirigenza juventina prima della stagione scorsa, cioè quando c'era Ferrara. Allestiscono una squadra per giocare con il rombo, fanno il loro investimento più importante per comprare Diego, per poi disattendere il tutto l'anno dopo, fare una squadra per un allenatore che fa il 4-4-2, peraltro l'unico 4-4-2 in Europa senza esterni di ruolo. Mi sembra di dire cose che capiscono tutti, però abbiamo fatto tutto l'anno senza un esterno di sinistra, adattando Pepe, l'unico è Krasic, i difensori che dovrebbero spingere erano di livello così basso, insomma. Alle responsabilità del Neri ce le ha la dirigenza. Io vorrei citare un esempio che peraltro le chiedo di sponsorizzare il più possibile: il miracolo che ha fatto Gigi Simoni quest'anno a Gubbio, con una squadra allestita con giocatori che vanno dall'anno 88 all'anno 92 per il 70%, senza soldi praticamente, e vincono il loro bel campionato. L'anno prossimo si fanno una Serie B alla grande, insomma, voglio dire, le competenze ci sono in giro. Sì, certo, in una categoria diversa, però è più facile, con tutto rispetto per il lavoro che ha fatto Simoni, che uno di questi giorni ce lo racconterà in dettaglio, che ha fatto Torrente, perché Simoni era il direttore tecnico, ma l'allenatore è stato Vincenzo Torrente, e a Gubbio hanno fatto qualcosa di storico, indubbiamente, per quella città e per quel calcio, ma insomma, non paragonerei realtà diverse in cui in un caso quello che viene è, non dico sia di più ma quasi, e nell'altro caso quello che non viene era invece un atto dovuto, mi sembra sia una di quelle differenze abissali proprio. Sentirei a proposito dei rinnovi, sapete che il Milan in questi giorni sta facendo questa cernita, no? sui contratti in scadenza, per vedere chi resta e chi invece va. Uno importante di queste trattative riguarda certamente Seedorf. Comunque è andata bene, abbiamo avuto una bella riunione, molto amichevole, sereno. Adesso settimana prossima ci incontriamo di nuovo, anche perché vogliamo chiudere la stagione possibilmente con una vittoria, facendo il nostro dovere in campionato, e dopodiché si concluderà anche le nostre negoziazioni. Io commento solo quelle che sono i nostri accordi per adesso, di incontrarsi, però ma andrà bene lo comunque, cioè, anche se dovessimo scegliere di non continuare. Sì, insomma, non è che abbia grandi problemi per il futuro Seedorf, diciamo che per, anche dovesse restare senza quadra, cosa che escludo, insomma, per qualche tempo dovrebbe riuscire a sbarcare ugualmente Lunari. Avete sentito il tono giusto in cui questo giocatore, che non è solo un grande giocatore in campo ma che è anche una persona di valore e di grande intelligenza fuori, avete sentito il tono, no, in cui ha concluso questa rapida disamina sulla trattativa avuta ieri con la società. Denis ha chiamato da Venezia, buongiorno. Buongiorno signor Garantini, salve a tutti gli ascoltatori. No, volevo fare un appunto a tutte le cose che un po' si sentono su Leonardo, che diciamo viene un po' bistrattato, diciamo, dal lato milanista, nel senso per la scelta che ha fatto, eccetera, eccetera. Mi sembra che comunque i milanisti abbiano avuto abbastanza cose dall'Inter, sia come giocatori, eccetera, eccetera. Hanno vinto anche tanto con i nostri ex giocatori, io sono il tifoso interista. E Leonardo, che si è comportato sempre bene, è un signore nel suo modo di fare, sia da giocatore che da dirigente del Milan. Si è scelto di cambiare lavoro, si tratta di cambiare lavoro, io capisco il tifo, capisco tutto, però una persona per bene come lui, che ha scelto di fare lo stesso lavoro che faceva prima in un'altra squadra, penso che sia da rispettare, ecco, soprattutto per il suo modo di comportarsi, il suo modo di agire, la persona che è. Questa sì, è la mia opinione. Ma sì, ma è giusto. Non capisco tutto questo. È giusta la sua opinione, è giusto anche che ci sia rivalità, un po' accesa, soprattutto in una stessa città, una rivalità stracittadina, no? Che non possiamo scoprire oggi, che è consolidata ormai da più di un secolo, e quindi ci sta anche quella. Tutto sta a vedere entro che limiti rimane. Ci sono dei limiti che quest'anno sia la tifoseria milanista collettivamente nel derby da un punto di vista coreografico e poi qualche singolo dopo, a cominciare da Gattuso, hanno varcato. Sono limiti di buon gusto, di cui anche tenendo conto di rivalità e dintorni, cioè, questi limiti non andrebbero varcati. In teoria, in un habitat un pochino meglio frequentato di quanto invece non sia. Allora, se qualcuno ha la curiosità di sapere che cosa ha scritto, e perché qualcuno già me lo sollecita attraverso via SMS, Cavia Marias sul settimanale di stamane del Paese, a proposito di Mourinho, Marias ha scritto questa cosa da madridista storico, perché lui è sempre stato, pur essendo un uomo di cultura, è uno dei tanti uomini di cultura che hanno un debole e una vera passione per il calcio, ovviamente per il calcio, diciamo, di una certa misura, il calcio raffinato da un punto di vista dell'approccio mentale, del gusto e della frequentazione, che gli viene dall'essere scrittore. L'approccio raffinato dal punto di vista strettamente tecnico che gli viene dal fatto di essere un madridista storico. Lui ha battezzato Mourinho uno sciamano da sagra, e poi ha scritto, per esempio: Florentino Perez sarà una lince nei suoi affari, ma sta dimostrando di essere un uomo poco intelligente per essersi consegnato a uno sciamano da sagra come Mourinho, uno ancora meno intelligente di lui. Un individuo che non sa di calcio, che tratta il Madrid senza garbo, che non ha scrupoli nel tradire una tradizione secolare e nello sporcarlo con una macchia che sarà difficile cancellare. Si possono tollerare al Bernabeu il gioco povero, il poco successo, gli allenatori taccagni come Capello o Juan de Ramos, perfino i presidenti delinquenti, perché poi finiscono comunque lontani da campo e spogliatoio. Ma non un allenatore onnipotente, onnipresente, rissoso, un lagnoso che accusa sempre gli altri, un individuo dittatoriale, insudiciatore, intrigante, soporifero nelle sue dichiarazioni, per nulla intelligente, cattivo e perdente. Il Madrid targato Mu conclude perché va avanti per colonne e colonne, ma insomma, a un certo punto, questa sintesi che ho ricavato conclude dicendo: il Madrid targato Mourinho È una squadra con buoni giocatori ai quali lui chiede di giocare in maniera brutta e cattiva, con ottimi attaccanti cui impedisce nelle partite chiave di attaccare, con giocatori d'onore che obbliga a comportarsi in maniera disonesta e brutale. Il vero Real, prima di Madrid, prima di Mu, era un'altra cosa, non si lamentava di nulla. Se gli annullavano un gol ingiustamente era un dettaglio, se ne sarebbe segnato un altro. Stessa cosa per i rigori fischiati o meno, le espulsioni rigorose o ingiustificate. Ripeto, questo è il giudizio che un accademico di Spagna, Javier Marías, dà di Mourinho. Oh, per non dimenticarcene poi, vediamo di scoprire subito che cosa è accaduto con Nicola Filipponi in un 18 maggio. Sembra ieri. 18 maggio 1929. Il congresso della FIFA, riunito in un ristorante di Barcellona, prende una decisione storica, assegnando all'Uruguay l'organizzazione della prima edizione dei mondiali di calcio, che si sarebbero tenuti l'anno successivo. Si concretizza così il sogno del numero uno del calcio mondiale, il francese Jules Rimet. L'Uruguay batte la concorrenza di diverse nazioni europee, forte dei successi della sua rappresentativa olimpica nelle ultime due edizioni dei giochi e del fatto che l'evento cada in un anno di festeggiamenti per il paese sudamericano, il centenario della prima carta costituzionale. Ma molte federazioni del vecchio continente, deluse per non essere state scelte per ospitare il torneo o spaventate dalle spese e dal viaggio, decidono di non partecipare. In rappresentanza dell'Europa ci saranno solo Belgio, Francia, Jugoslavia e Romania. Sentirei a questo punto che cosa ha detto Kakà, perché voi sapete che il Milan ha fatto un serio, no, forse non tutto il Milan, diciamo, i vertici del Milan hanno fatto un serio pensiero al ritorno di Kakà, come se non fosse bastato quello di Shevchenko, qualche anno fa, aggiungo io. Ma questa è sono assolutamente sensazioni personali. Kakà ha detto che rimane a Madrid, non so, ripeto, in quanti abbiano preso male questo annuncio, in ogni caso lo ascoltiamo. È un piacere sapere che sono andato via dal Milan, però ho lasciato le porte aperte, i rapporti sono sempre belli con i dirigenti, con i compagni, con i tifosi, con tutti lì. Questo per me è veramente un piacere, però voglio rimanere ancora a Madrid. So che ho fatto due stagioni non bellissime, quindi devo fare qualcosa in più qui a Madrid, e questo è quello che voglio adesso. Voglio rimanere ancora qua e provarci a vincere e fare qualcosa di bello anche qui. Due ascoltatori ancora. Marco dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno. Sì. Senta, siccome siamo su Radio 24 e Radio 24 non è né bianco né nero, io non voglio fare il messia e neanche sono un giornalista, però la cosa è certa che noi si era due anni, l'anno scorso, quando il Milan andava male, a parlare con Leonardo fuori a Milanello, e tutto il pubblico che poi ha manifestato questa cosa qua allo stadio con tanto di striscioni, che basta schiacciare un bottone nel 2000 e si vede, erano tutti pro Leonardo e contro Galliani e contro il presidente, perché non apprezzava il gioco di Leonardo. Ecco dove è stato il tradimento, perché tutti i tifosi, no? Non le dico quanti tifosi erano a stare dalla parte di Leonardo, si sono schierati tutti a suo favore e non con Galliani e Berlusconi. È per questo che al milanista dà fastidio questa cosa qua, perché lui aveva detto, dopo che era successo questa cosa qua, che una manifestazione del genere di affetto nei confronti dei milanisti l'avrebbe portato solamente a fare una cosa, a andare o all'estero o in Brasile. Questa ma è sì, la verità. Marco, infatti nel calcio si parla troppo, no? E si prendono troppo sul serio le persone, le situazioni e le cose. Bisognerebbe prendere tutto con molta più lievità, non certamente come la sta prendendo lei o come l'avete presa voi. In quel momento Leonardo pensava in quel modo e dopo l'ha presa in un altro. Che Leonardo sia una persona coerente, no, lo escludo. Questo, ma lo escludevo prima che lei ci raccontasse questo episodio. Che sia stata molto di buon gusto la sua scelta, nemmeno, perché delle rivalità bisogna tenere conto. Ma che il vostro sostegno lo obbligasse moralmente ad andarsene soltanto in Brasile, no? Accettare altre offerte, questo mi permetta, è semplicemente ridicolo e fa parte del vostro eccesso di considerarvi protagonisti del mondo del calcio, quando invece siete e dovete essere soltanto spettatori. liberi di fischiare o di applaudire. Poi, certo, i più eleganti e i più colti di voi possono benissimo far sì che uno stadio intonino 80.000 uomo di merda. Questo fa parte, per carità, del bagaglio culturale della tifoseria oggi più, come dire, più popolare. Giampiero, Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Volevo esprimere una mia opinione da spettatore, come dice lei, del calcio. E la mia opinione era, per quanto riguarda l'allenatore della Juve, il prossimo allenatore, che avrei sperato in un allenatore che avesse già vinto un titolo nazionale, per appunto risolvere le sorti di questa squadra che in questo periodo non è all'altezza. Sì. Se arriverà Conte, da come sembra, spero almeno che ci sia un programma a lungo termine, perché penso che almeno 2 o 3 anni con una guida tecnica sempre continuativa sia la miglior scelta possibile. L'ho già sentita questa negli ultimi anni, sinceramente, che ci vuole almeno un programma biennale o triennale. L'unico che era cominciato seriamente di programmi biennali o triennali era quello con Deschamps. Come noto è durata poco. Adesso vediamo se quest'anno la Juve riuscirà a frenare la sua fretta. Vediamo soprattutto di passare rapidamente alla sigla della rubrica del Giro d'Italia. Voci dal Giro. Tappa numero 11, Tortoreto-Lido-Castelfidardo, 144 km, pochissima pianura e 4 gran premi della montagna, sia pure bassini. Uno che ci potrebbe provare è un varesino, Stefano Garzelli dell'Acqua Sapone. Sentiamolo al via. Senza dubbio è una tappa che mi piace, già comunque prima che iniziasse il giro era una tappa in cui intrigava molto. Vediamo, senza dubbio sarà difficile perché saranno tanti attacchi, tante fughe, bisognerà vedere un attimino come si imposterà la corsa. Se in caso di arrivo finale di un gruppo coi migliori, sicuramente proverò a fare la mia corsa. E vediamo, sarà una tappa corta, difficile, tutti hanno voglia di fare, di attaccare, e manca ancora tanto giro, quindi bisogna comunque anche le forze sprecarle, ma il giusto. Sì, è o tutto o niente, è una tappa difficile da interpretare perché, ripeto, corta e quindi non c'è pianura, tutte curve destra e sinistra, chi ha voglia di fare può fare, anche se credo che prendere un poco in castagna gli uomini in classifica è difficile, si guarderanno un po', però bisogna aspettarsi tutt'oggi. Voci dal Giro. Vediamo che cosa accadrà ormai tra un'oretta circa o poco più di questa tappa, in teoria non un tappone, ma di quelle che invece possono lasciare un segno sulla classifica, sull'andamento, sul morale di alcuni dei protagonisti. Grazie a Fabio Cantadori in regia, a Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio, appuntamento a domani.